I rapporti ottimi, devo dire, con gli organismi sportivi vanno avanti da qualche anno. Ribadisco, il controllo noi non è che nasce adesso, il controllo nasce da qualche anno, solo che adesso il sistema informatico e informativo anche dei controlli si è sviluppato proprio per l'esigenza di controllare sempre meglio. Quindi come funziona? Funziona ci sentiamo spessissimo. Ci sentiamo ovviamente, visto che le partite sono il sabato e la domenica, inizialmente in via informale, le segnalazioni vengono fatte telefoniche, e un invio di mail e quant'altro, quindi inizialmente c'è un sentirci in maniera informale, poi se necessario c'è una formalizzazione di tutte le informazioni. Parliamo con gli organismi sportivi italiani, ma ovviamente non è escluso che a breve potremmo andare a porre il nostro know-how anche a disposizione degli organismi sportivi europei e internazionali.